13. Tutta la comitiva di invitati rimase quella sera a dormire in casa nostra. Anche uno dei musicisti boemi fu trovato l'indomani addormentato sul divano in biblioteca. Nessuno scese per la colazione, solo Bozevski si alzò presto e andò a fare una galoppata nei boschi. Verso le 8 io ero sveglia e suonai il campanello. Venne Elisa Perrier e spalancò le mie finestre. La fresca aria di aprile e il cinguettio dei nidi mi salutò. Elisa, fa bel tempo? Sì, signora. Elisa, si vedono i monti? Sì, signora. Quando vedi i monti non hai nostalgia della tua Svizzera? Sì, signora. Ed Elisa si chinò a prendere le mie scarpette e a dissimulare il rossore che le era salito alla fronte. Anch'io ho nostalgia, Elisa. Ho nostalgia di lontananze, d'ombre, di frescura. Ho nostalgia di pace e di silenzio. Ella non rispose. Troverai tutto ciò nella tua Svizzera? Elisa Perrier scuote la testa, poi risponde a bassa voce: No, signora, la nostalgia svizzera e la nostalgia russa sono diverse. In che modo? Beh, noi svizzeri abbiamo la nostalgia delle cose del di fuori, delle montagne, degli abeti, dei villaggi, ma loro, russi, hanno nostalgia di ciò che si porta in sé. Tioca, in camicia da notte, seguito da Tania che succhia la testa della bambola di gomma, sono accorsi solleciti e giocondi. Andiamo in Svizzera, dice Tioca che ha udito il discorso. Che gioia, che bello! Che gioia, dice Tania che fa sempre eco a Tioca. Io amo molto gli andare via, soggiunge Tioca, e Tania ripete: Io amo molto gli andare via. E mi stupisce di scoprire in questi due piccoli esseri creati da me l'irrequietezza mia già posata a sommo delle loro tenui anime come una farfalla che batta le ali. Scesi sola nel giardino e mi inoltrai nel boschetto dove penetrava con una mite bianchezza quasi lunare il sole. L'erba sotto i miei piedi era smaltata di pervinche, rigidette e stilizzate che alzavano soddisfatti gli ingenui volti al cielo. Ma le violette selvatiche, consce d'essere senza profumo, flettevano vergognose l'esile collo di malachite, mentre le arcuate felci, come poeti del Seicento, svolgevano in ornato ricamo le loro verdi iperboli attorcigliate. Nei rami sopra il mio capo, nascosti tra il nuovo fogliame, gli uccelli traevano timidamente dalle tenere gole delle lunghe note di contralto piane e liquescenti. Di fronte a tutte queste cose semplici e pure, l'anima mia si commosse e dissi loro: Anch'io voglio essere semplice e pura. E mi inginocchiai sull'erba e curva baciai il viso di una delle pallide violette senza fragranza. Mi parve che essa mi rendesse il bacio solennemente. Uscii dal bosco e mi trovai davanti al bersaglio. I domestici avevano rimesso tutto a posto: pistole, carabine, munizioni e una rinnovata fila di bottiglie pareva aspettare con sguardo vitreo il fuoco dei dilettanti tiratori. Ricordai con profondo senso di umiliazione le turbolente ebbrezze della sera precedente, ed anche una volta mi dissi: d'ora innanzi la mia vita sarà semplice e pura. Una gioconda voce mi scosse: Buon mattino, signora. Era Bozevski, che battendo insieme gli spronati tacchi e scoprendosi ricci biondi, mi salutava. Pareva che la trottata mattutina gli avesse aggiunto beltà e arroganza. Io risposi al saluto chinando il capo senza parlare e feci per allontanarmi, ma egli, prendendomi la mano, mi trattenne. Perché rientrare? Tutti dormono, via. State qui ed esercitatevi un poco. Così dicendo, scelse una piccola carabina e la caricò rapidamente. Avete la vista di Sparviero e i nervi d'acciaio, non è vero? Mi tendeva con un bel sorriso franco la carabina. Io la presi e la misi all'omero. Mirai con quanta cura potei e stavo per premere il grilletto quando Bozevski, con gesto fulmineo, protese la mano e poggiò il palmo sulla bocca del fucile. Aspettate! Gridò con un sorriso esaltato e folle. Aspettate un momento. Prima dovete dirmi: Sergio, vi amo. Ma siete pazzo, dissi io. Togliete la mano dalla canna. No, prima mi direte: Sergio, vi amo. Io sentii una vampa salirmi alla fronte. Togliete la mano, dissi, ve ne prego. Egli non si mosse. Toglietela, ripetei. Egli non la tolse. Io vedevo quella mano che turava la bocca del fucile, vedevo le lunghe dita sottili, tese e dischiuse, mi pareva d'essere allucinata. Non era più una sola mano che io vedevo, erano tutte le mani di tutti gli uomini spalancate ed abbrancanti, tese verso di me per afferrarmi, per spezzarmi, per abbattermi. Certo, un'onda di follia mi travolse. Con un motto spasmodico, premetti il grilletto e il colpo partì, vidi la lunga mano rosea abbattersi come una cosa uccisa. Con un urlo lasciai cadere la carabina e mi coprì il viso, ma Bozevski mi era addosso e con l'altra mano mi afferrava i polsi e li forzava all'ingiù. Poi con la faccia vicino alla mia, ed era bianco come un morto, sibilò: «Ah sì? Piccola belva assassina, è questo che ti piace? È sangue che tu vuoi?» E con la mano sfracellata e grondante mi copriva la bocca aperta ad urlare. Dal palmo lacerato il suo sangue mi sgorgava sul viso, mi colava nel collo, in gola, rantolavo, soffocavo, morivo. Da quale lontana, atavica onda di demenza fummo travolti noi due in quell'ora? Quale barbarica furia di primitivo odio ed amore ci allacciò, convulsi e selvaggi, in una stretta di feroce e di delirio? Io non so, so che da quell'ora io fui cosa sua, domata, spezzata, annichilita. So che della mia devastata giovinezza egli fu l'amante, puro, unico e ultimo. Al suo fianco passai, stupita ed estasiata, la mia breve primavera di felicità, e con la strage di lui si infranse l'intelletto mio. Io che un giorno lo vidi cadere ai miei piedi, assassinato da Vasili, io che lo vidi disteso, rigido e morto sul suo letto, io che fui condotta. Perché e da quale sinistro e selvaggio mentecatto in un anfiteatro a vederne sezionate le pallide carni? Non ho mai, mai, mai creduto che egli fosse morto davvero, né ancora oggi lo credo. Credo che un giorno, oh mite Iddio, fate sia presto, la porta della mia cella s'aprirà e ritto nel sole come un giovine santo aureolato dal martirio antico e dalla biondezza dei ricciuti capelli, l'amante della mia giovinezza mi riapparirà. E la chiara voce mi dirà: «Buon mattino, signora!» Io mi alzerò da questa negra panca e gli muoverò incontro. L'onta e i delitti e la prigionia cadranno da me come un vecchio mantello fosco e logoro. Libera e bionda come in quell'aprile lontano in cui egli mi amò, andrò a lui ed egli mi tenderà la mano ch'io ferii, piena di rose, con bianco passo e alata, dove mi chiama la sua voce. Andrò. 14. Da un giorno all'altro Vasili divenne geloso. Quando io l'avevo adorato, egli non si era mai curato di me. Ora che gli sfuggivo, si disperava. «Tioca ti somiglia molto», gli dissi io a colazione una mattina. «Trovi?» E Vasili carezzò la testina bionda di suo figlio e il visetto che faceva smorfie per non voler mangiare. «In che modo?» «Ora vedrai». E chinandomi sul piccino, gli dissi: «Tesoro, non vuoi mangiare?» «No», disse Tioca, assai deciso. «Su, via, mangia la buona zuppa!» E gli misi il cucchiaio ricolmo vicino alla bocca. «No», disse Tioca, distogliendo il volto. «Ma perché no? Non è buona?» «No, è marcia!» «Allora», dissi io, deponendo il cucchiaio, «la daremo al ragazzetto dei contadini!» «No, no!» gridò Tioca e divorò la zuppa a grandi cucchiaiate. Vasili rise. «Ha ragione», disse. «La sua zuppa non è per il ragazzetto dei contadini. A ciascuno la propria zuppa, vero Tioca?» «No», disse Tioca. «Ma come no? Devi dire sì!» «No», fece Tioca gravemente. «Oggi è il mio giorno di no!» Suo padre rise, assai divertito. «Anch'io», disse, «voglio avere dei giorni di no e comincerò subito. Oggi mura non riceveremo nessuno!» «Ma come?» esclamai. «Hai pure invitato a pranzo i Gregorievski?» «No», disse mio marito. «E i Semenzov e Bozevski?» «No», ripeté lui. «Allora non vuoi riceverli?» «No», ripeté lui. «Oggi è il mio giorno di no». E il ricevimento per la sera fu disdetto. Lo scherzo parve a Vasili divertentissimo perché lo sentì ridere tutto solo mentre scendeva le scale. E spesso lo ripeté. Ben presto egli ci ricondusse tutti a Kiev. Ebbe sovente dei giorni di no, soprattutto non volle più che Bozevski venisse a trovarci e un mese dopo passò senza che io potessi vederlo. Una sera fummo invitati a un ballo in casa degli Stahl e Vasili, che era di buon umore, accettò. Sapevo che vi avrei trovato, Bozevski, e a questo pensiero tremavo tutta di gioia e di spavento. Elisa Perier mi vestì di voile roseo e mi mise al collo le famose perle di casa O'Rourke, quelle di cui la leggenda vuole che adornassero anche il gracile collo della mia regale Ava Maria Stuarda. Partimmo in troica, Vasili ed io, ed egli era buono e allegro, mi avviluppò nelle pellicce fino agli occhi, poi sedette al mio fianco, imbacuccato anche lui fin sopra il naso. I cavalli partirono come il vento. Una tenerezza tiepida mi invase il cuore. Pensai che Vasili forse in fondo non era cattivo, così giovane, anche egli, forse se io fossi stata meno bambina all'epoca delle nozze, mi avrebbe amata di più. Forse eravamo ancora a tempo a rifare la nostra vita. Se andassimo lontani da Kiev, lontani da Pietroburgo, a riprendere il filo del nostro idillio spezzato. La mia mano, sotto le pellicce, cercò la sua, e gliela prese e la tenne stretta senza voltare gli occhi. Glieli vedevo luccicare tra il berretto e la coperta, fissi davanti a sé. Silenziosamente, in cuor mio, durante quel tragitto, gli perdonai tutto e gli chiesi perdono di tutto. Già mi vedevo con lui e i bimbi e la zia Sonia, chiusi e felici in una ridente villa circondata di rose, in Italia. Egli avrebbe studiato la musica, forse anche scritto un'opera. Io, seduta ai suoi piedi, avrei letto i poeti italiani e dalla finestra aperta avremmo scorto l'azzurra onda ferma degli Appennini. Forse, Italia, è la tua chioma fragrante. Nel talamo tra due mari seren. Ma la troica si fermò. Vasili balzò fuori sulla neve e dalle finestre illuminate la musica zigana, acre e sensuale, si portò via come in un vortice di vento la villa in Italia, le rose e i poeti italiani. Non ubriacarti, Vasili, gli sussurrai mentre nell'anticamera i servitori ci toglievano mantelli e scarpe da neve. Perché no? Che idea? Disse lui. Ed entrammo nelle troppo calde e troppo illuminate sale. Nel fondo una trentina di zigane, donne e uomini nei pittoreschi costumi suonavano e cantavano. Le coppie di danzatori turbinavano nell'aria satura di profumi. La cortese e rigidetta moglie di Stalci accolse con breve sorriso e Stalci salutò con effusione esaltata. Era pallido, con due chiazze rosse in cima alle gote. Pareva briaco, ma non lo era. Subito, dal fondo della sala mi corse incontro Bozevski, superbo e raggiante, nella sua uniforme di gala, con la tunica azzurra stretta sui fianchi da una cintura rossa. «Salve, Fata Morgana!» mi disse, e subito mi cinse la vita. «Dansez avec moi!» Ma mi ritrassi. «Hélas, prince charmante, je n'ose!» «Che peccato, bel principe, io non oso!» Egli si inchinò impallidendo, poi girò sui tacchi e tutta la sera mi stette lontano. Lo vedevo circondato di donne che nella danza si abbandonavano illanguidite e sospiranti sul suo petto. Io mi ritrassi in un angolo della sala dove delle grandi piante mi celavano ai rumorosi allegri convitati. «Che fate qui nascosta?» mi disse Stahl, avvicinandomi con le pupille più che mai contratte e l'alito breve. «A che cosa pensate?» «A nulla», dissi io malinconicamente. «Vi darò un buon pensiero», disse Stahl. «Pensate che da qui a 100 anni saremo tutti morti». «È vero», dissi io, e un profondo sgomento mi entrò nell'anima, «forse anche da qui a 50». «O 30», soggiunse Stahl ridendo. «O 20», dissi io, sempre più sgomenta. «No, no», disse Stahl, «tra 20 anni sarete ancora una bella matrona sulla cinquantina», e poiché qualcuno lo chiamava, mi lasciò. Come piombo rovente mi erano cadute nel cuore le sue parole. Che poco tempo si aveva! Come volavano gli anni! Come presto sfuggiva la giovinezza! Quali breviali aveva la gioia! Alzai gli occhi, che certo erano pieni di tristezza, e vidi Bozevski in fondo alla sala che mi guardava. Delle donne lo accerchiavano, gli parlavano, ma egli bruscamente, senza spiegazione, senza saluto, le lasciò tutte in asso, traversò la sala e venne a me. Gli zigani suonavano una musica molle e deliziante. Senza una parola, Bozevski mi circondò col braccio e mi trascinò nella danza. La musica si affrettava, si faceva aspra e snervante. Nelle braccia di Bozevski io mi sentivo leggera, alata, aerea, e sognavo di danzare così eternamente, danzare, danzare fino all'orlo estremo della vita e, danzando ancora, precipitare nell'abisso della morte e del nulla. Turbinando così, m'accorsi che Vasili ci guardava, beveva vodka e champagne e rideva forte con Stahl, ma sempre ci guardava. Io ero già stanca di ballare, ma non osavo fermarmi per paura di lui. Danzavo, danzavo con le vertigini, ansando, e sentivo il mio cuore precipitare il battito con la furia martellante di una motocicletta in corsa. Da Danzavo, danzavo e la sala e la gente, gli zigani roteavano davanti ai miei occhi e Vasili, Vasili guardava. A un tratto le forze mi mancarono. Mi parve che il pavimento fosse fatto d'acqua, cedente e ondulante, e la motocicletta che mi pulsava nel petto si fermò. Sentii il braccio di Bozevski irrigidirsi e sostenermi, ma la mia fronte gli cadde sull'omero. Tutto girò, girò follemente, si oscurò, si spense. 15. Quando riaprii gli occhi, molte signore mi stavano d'intorno e Stahl era chino sopra di me con un piccolo strumento di vetro e d'acciaio in mano. Era una siringa ipodermica. Spaventata mi ritrassi. No, no, non voglio. Vasili, che era dietro a me, vedendo che ero rinvenuta, mi pose una mano ferrea sulla spalla ignuda. Andiamo, disse con voce rauca e recisa. Ma dove? Mi levai tremante e debole ancora, quasi non ricordavo dove fossi. A casa, disse Vasili, chinandosi sopra di me con sguardo terribile. E con la faccia vicina alla mia, soffiandomi in viso il sottile, dolciastro effluvio d'etere che lascia la vodka, proferì: È finita la danza, è finita! E stringeva i pugni. Io ebbi paura. Un gran silenzio era caduto intorno a noi. Andiamo! Ripeté con uno scoppio di voce che mi fece trasalire. Indietreggiai, intimorita. Allora Vasili stese la mano e afferrò la mia collana di perle che gli si ruppe fra le dita. Le latte e gemme rotolarono per ogni dove. I convitati, uomini e signore, si chinarono a cercarle e a raccoglierle. Ma Bozevski aveva fatto un passo innanzi ed ora stava fiero e aggressivo di fronte a Vasili. Gli disse una breve frase a voce bassa, ma Vasili urlava e rideva, insolente, miserabile. E cercando nelle tasche per trovarvi un'arma, gridava: Via tutti! Spegnete i lumi, giocheremo a mosca cieca. Lulano ed io. Giocheremo a mosca cieca nel buio. Stahl, date qua due revolver. Cacciate via la vostra gente, spegnete i lumi. Ero ubriaco e forsennato, ma Bozevski era calmissimo. Perché nel buio, conte Tarnowski? Perché non ha la luce del sole a 10 passi? No, ruggiva Vasili, voglio ucciderti nel buio, ma la bestia che tu sei, voglio ammazzarti nel buio. Non so come riuscimmo a farlo salire nella troica con la Grigorievskaya e Semenzov, gli unici che avessero su di lui qualche ascendente. Io seguii in un'altra troica con Stahl, che per tutta la strada ansò e tremò in preda a non so quale atroce fisica angoscia. E nella stellata quiete della notte, mentre le slitte scivolavano silenziose sulla neve, s'udiva la voce ebbra di Vasili gridare: Mosca cieca! Mosca cieca! Al buio, pim pum, mosca cieca! Lo scandalo in Kiev fu enorme. La città non parlava d'altro e tutte le donne davano ragione a Vasili e tutti gli uomini davano ragione a me. Vasili poco si curava degli uni e delle altre e s'aggirava con viso truce e né a me né ai bimbi rivolgeva mai la parola. Io ne ero nervosa e spaurita. Finalmente, la sera del terzo giorno, chiedendo coraggio a Dio, bussai alla sua porta. Egli disse: Avanti. E io mi inoltrai timidamente. Egli stava in piedi vicino alla finestra e fumava. Si volse a guardarmi ed io ebbi paura dei suoi occhi stralunati e cattivi. Vasili, e la voce mi tremava. Vasili, non essere in collera con me, perdonami, balbettai. Non volevo farti pena, non volevo, e ruppi in pianto. Egli parve commosso e mi tese la mano, però non disse nulla. Continuò a fumare e a guardar fuori dalla finestra. Io rimasi accanto a lui, muta e imbarazzata, tenendogli la mano e non sapendo che cosa dirgli. Forse gli piacque il mio silenzio, perché di lì a poco sentii che le sue dita stringevano forte le mie. Osai guardarlo in faccia e vidi che aveva gli occhi pieni di lacrime. Andiamo via, esclamò cupamente d'un tratto. Andiamo via, vuoi? Via dove? Chiesi io col cuore tremante. Via, lontano, via dalla Russia, non ne posso più, non ne posso più. E Vasili mi lasciò cadere la mano per stringere i pugni. Anche io ci avevo pensato. Balbettai e gli parlai timidamente della villa con le rose in Italia e della musica e dei poeti italiani. Mura, Mura, disse egli prendendomi il mento tra le mani e sprofondando i suoi occhi nei miei. Dimmi, dimmi, non è troppo tardi? Era troppo tardi. Appoggiai la guancia al suo braccio e sospirai. Come un'onda di fuoco la passione per Bozevski torreggiò sopra di me, si abbatté, mi sommerse. Poi ripensai ai miei figli, al giardino fiorito in Italia. No, Vasili, no, non è troppo tardi. Fu deciso che prima della nostra partenza dalla Russia, per non lasciare dietro noi rancori e maldicenze, Vasili e Bozevski si sarebbero riconciliati. Gli Stahl e i Gregorievski si incaricarono con amichevole premura di organizzare una festa, in cui avremmo preso commiato da tutti gli amici e conoscenti. In seguito ci saremmo recati in palco all'opera e finalmente ci saremmo riuniti con gli Stahl e i Gregorievski a cena al Grand Hotel, ospiti del Bozevski stesso. Ivi ci saremmo detto addio, forse per sempre, onestamente, nonostante l'angoscia di desiderio che mi attirava verso di lui, rifiutai di trovarmi con Bozevski prima di quell'ora, per entrambi così solenne e dolorosa. Vasili si diede attorno per procurare i passaporti necessari e nella nostra casa tutto fu smantellato e riposto. Ed eccoci alla vigilia della partenza, eccoci alla sera che doveva essere l'ultima e suprema della mia felicità. Io coprii di raso e di gioielli il mio cuore straziante e dolorante. Sergio doveva per l'ultima volta vedermi bella. Voleva essere per lui un ricordo sublime e radioso. Sei superbamente bella, mi disse mia cugina Vera, appena entrai nella sala, squadrandomi da capo a piedi. Io capisco che tutti siano pazzi di te. Fui immediatamente circondata da amici e conoscenti che deploravano su tutti i toni la nostra decisione di lasciare la Russia. Kiev sarà vuota senza di te, sarà come un anello di cui si è perduta la gemma. Io sorridevo e sospiravo, lusingata e mesta. Chi avrebbe detto che tutti costoro, dopo questa sera, mi sarebbero passati accanto senza più salutarmi, distogliendo gli occhi da me come da un paria ignobile? Ma ecco Bozevski, che pallidissimo, con la faccia rigida, s'avvicinava a me. Si chinò profondamente a baciarmi la mano. Ave, ave, Maria, disse. E mi guardò lungamente in viso. La sua disperazione era così visibile che io ebbi paura di Vasili. Sergio mi lesse quel timore negli occhi e rise. Io ho idea che questo sia un agguato, disse con fare sdegnoso e quasi senza abbassare la voce. Un agguato? Ma che dite? Ed io lo fissai, smarrita e interrogante. Sì, un agguato, disse lui. Poi, con riso cinico e frivolo, intonato alla società che ci attorniava, continuò: Contessa. A lei non capita mai di citar sbagliato un verso o una frase? Di cominciare a dire una cosa e terminare con un'altra? Ma non so, risposi nervosa e incerta, perché? Perché? Vide Vasili che si avvicinava e con fare sprezzante parlò più forte. Perché a me frulla pel capo stasera una citazione sbagliata. Ave, Maria, morituri te salutant. Coloro che stanno per morire ti salutano. Morituri? Disse sorridendo Vasili, avanzandosi e tendendo con gesto franco la mano a Bozevski. Spero di no. Bozevski gli prese la mano e lo guardò negli occhi. Vasili gli rese lo sguardo, poi impulsivamente si sporse avanti e su ambe le gote lo baciò. No, non fu un agguato. Dal profondo della mia coscienza sale questo grido a difesa di colui che in quella sera infranse la vita mia. Fu per giocondo impulso del suo cuore leggero che Vasili abbracciò colui che un'ora prima odiava e che un'ora dopo assassinò. Non fu un agguato. 16. Certo, in quella sera fui bella. Alla cena nel Grand Hotel sentivo tutti gli uomini esaltati, più che dal vino e dalla musica, da me. Seduta tra Vasili e Stahl, ridevo, ridevo, folle ed estasiata, e Bozevski mi stava di faccia. Guardando il suo viso superbo e appassionato, dicevo alla mia anima: domani non lo vedrai più, ma stasera egli è qui. Lo vedi, pallido per te, ebbro di te. Scorda il domani, che il domani è lontano. E ridevo, ridevo, mentre molli ed incantevoli i ritmi di valzer, suonati in sordina, mi snervavano. Mi rapivano verso un mondo irreale in cui, tra febbri e fervori di sovrumane passioni, io ero la pallida e portentosa amante di un divino e temerario eroe. Stahl, alla mia destra, aveva quel respiro affrettato e sibilante che ormai avevo imparato a conoscere. Anche Vasili pareva innamorato di me. Mi mormorava all'orecchio: domani, domani ti porterò via. Domani sarai tutta per me, lontano da questa gente che ti guarda, che ti desidera e che io strozzerei volentieri. e anch'egli rideva bevendo Clicquot e guardandomi con gli occhi accesi. Non bere più, Vasili, gli dissi piano. Non vuoi? Aveva in mano il calice di champagne. Non vuoi? Ecco! E gittò dietro a sé il biondo vino e il fine cristallo che si infranse in mille pezzi. Che fai? Che fai, Vasili? Gridò ridendo Grigorevski dal fondo della sala. Fai il re di Toulè? Precisamente, disse Vasili ridendo. Quello era un eroico amatore che si lasciò morire di sete per raggiungere l'innamorata morta. E tra le risa citò un po' incerto. Egli infranse il bicchiere e ne volle mai da un'altra coppa bere. Viva il re di Toulè! Gridò qualcuno. E tutti bevvero a Vasili. Bosevski si era alzato in piedi. Aveva negli occhi un luccicore strano. Tu sei il re di Toulè, disse. Ma io sono il cavaliere Olaf. Conoscete la leggenda? E girò sugli astanti lo sguardo lucido e provocante. Il cavaliere Olaf, lo sapete pure, disse Bozevski, è condannato a morte per aver amato la figlia del re, ed eccolo al suo ultimo banchetto. Bada, Olaf, gli dice il re, il boia sta sulla porta. E ci stia, sire, mentre io faccio un ultimo brindisi. E in piedi, come me, benedisse la vita e l'amore, benedisse Dio. E benedico le notti stellanti, e benedico la gioia, e benedico le rose fragranti, e benedico il boia, e benedico la fulgida aurora che più non rivedrò, e benedico la bella signora che a me s'abbandonò. Bella signora, che importa la vita quando si muore per te? Io benedico la selva fiorita dove tu ti desti a me. Così dicendo, e con gli occhi fissi nei miei, alzò il bicchiere e beve. Vasili era balzato in piedi, ma subito Stagli fu vicino parlandogli concitatamente e Grigorievski gridò: Le troiche aspettano, bisogna tornare a casa. E tra i saluti e gli auguri e gli abbracci il temibile momento passò, il pericolo fu scongiurato, andammo parlando tutti insieme alle nostre troiche. Mia cugina e la Grigorievskaja vicino a me, Stahl e Grigorievski stretti ai fianchi di mio marito. Addio, addio! Ci salutavamo con strette di mani e abbracci, i cavalli impazienti scuotevano le sonagliere nella frizzante aria notturna. Mia cugina aveva preso posto nella slitta ed io stavo per salire accanto a lei quando vidi Bozevski che si avvicinava a grandi passi. Passò davanti a mio marito che con Stahl e Grigorievski era fermo presso la seconda troica e venne dritto a me. Mi stese con gesto disperato la mano. Dunque, è finita. È finita, disse guardandomi in fondo agli occhi. E soggiunse ad alta voce come un pazzo. Bella signora, che importa la vita quando si muore per te. Addio, addio, singhiozzò e chinando il bel capo e stringendo tra le due mani ardenti la mia gelida mano, la baciò. In quell'istante udii un colpo d'arma da fuoco, poi una stridula e pazzesca risata di Vasili. Vidi i cavalli della slitta impennarsi. Bozevski, ancora chino sulla mia mano, si raddrizzò. Ebbe uno strano e legnoso gesto con la testa all'indietro, come un fantoccio che si rompe, poi con un terribile riso che gli scopriva tutti i denti, piombò bocconi ai miei piedi. Diedi un urlo e mi chinai su di lui. Dalla sua nuca il sangue mi spruzzò sul viso col forte getto di una fontana. Per la seconda volta fui coperta del suo sangue, ne avevo sul viso, sul petto, su tutta la veste. Io credevo di sognare. Stahl e gli altri erano accorsi e lo sollevarono. Vidi Stahl legargli strettamente intorno al collo una sciarpa bianca presa a qualcuno e subito sulla sciarpa apparve e si allargò una terribile macchia scura. Tra le braccia di Stahl, Bozevski parlava ancora, urlava e rantolava e guardava in faccia a me con gli occhi stralunati. Io benedico la selva fiorita dove ti desti a me, gridò. Poi un fiotto di sangue gli sgorgò dalla bocca e tacque.